giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:15, buongiorno, buona domenica da Daniele Letti, Gerita Micoli in questa breve edizione del giornale radio. La cerimonia che continuerà per tutto il giorno a Trieste per la collocazione di nuove pietre d'inciampo che ricordano i deportati triestini nei campi di concentramento. A margine dell'evento il governatore Fedriga è tornato sulla questione politica del terzo mandato, poi a Pordenone, dove è stato salvato e restaurato il portone della caserma dei Bersaglieri, lo sport con le vittorie nel basket di Trieste e Cividale, in chiusura la musica con Fresu che rilegge Miles Davis. A Trieste stamattina dunque sono state poggiate le prime di 18 nuove pietre d'inciampo che verranno installate nella cerimonia lungo tutto il giorno per ricordare le vittime della Shoah. Impressi nell'asfalto, i nomi e la storia di Rosa Elia e della figlia Enrichetta Baruch si tramandano alle giovani generazioni. Sono dedicate a queste due donne coraggiose le prime due pietre d'inciampo poggiate oggi a Trieste in memoria delle vittime della Shoah. La sera del 20 gennaio del 44, Rosa e Enrichetta, che avevano 89 e 73 anni, vennero portate via dai nazisti insieme a decine di anziani ricoverati all'ospizio israelitico Gentilomo. Caricati sul treno in partenza per Auschwitz, furono uccisi all'arrivo. A posare le pietre fuori dalla casa delle due donne in Corso Italia 12, i loro discendenti. Io sento un po' che anche questa posa delle pietre è un modo un po' di riportarle a casa qui a Trieste, perché ovviamente non hanno avuto sepoltura per tutto quello che è successo, e quindi almeno questo è un riportarle a casa in modo simbolico. Nel corso della cerimonia la comunità ebraica ha lanciato l'allarme sulla crescita dell'antisemitismo in Europa e in Italia, il rabbino capo Alexander Meloni. L'antisemitismo adesso ha un'altra dimensione, che è quella di cancellare un paese e una nazione, che è quella di Israele. Dunque anche l'antisionismo è antisemitismo. A condannare il ritorno dell'antisemitismo è stato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Le pietre di inciampo rappresentano non soltanto un ricordo, ma soprattutto in questi momenti una difesa di valori per cui tutti dobbiamo combattere. Purtroppo l'aumentare di antisemitismo che stiamo vedendo anche in Europa e in Italia non può essere lasciato sotto traccia, perché diventa pericoloso. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. A margine della cerimonia, il presidente della regione ha parlato anche di politica. Che le opinioni all'interno del centrodestra sul terzo mandato per i presidenti di regione siano diverse è evidente, ha detto Fedriga, come riporta l'ANSA. Mi auguro si possa trovare una sintesi, ha continuato, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza che è la Lega e che gli altri non possono liquidare con un non siamo d'accordo, arrivederci e grazie. Alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato, ha detto ancora Fedriga, un anno e due mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro presidente, sto parlando del Piemonte. Fedriga ha parlato anche delle crisi industriali a Trieste, a partire dall'ultima, 200 posti a rischio alla U-Box di Sgonico. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti, ha detto il presidente. Ora a Pordenone, dove questa mattina c'è stata l'inaugurazione della cancellata d'ingresso della ex caserma Franco Martelli. È stata inaugurata poco fa la cancellata d'ingresso dell'ex caserma Franco Martelli, che si trova di fronte alla facciata del nuovo ospedale in via Montreale Pordenone, sito della storica sede dell'ottavo bersagliere, il grande ottavo di Pordenone. Per ricordare questo luogo caro e simbolico della città, alcuni veterani pordenonesi avevano proposto di mantenere e valorizzare la cancellata d'ingresso dell'ex caserma con le sue colonne originali. Il progetto è stato accolto dal comune di Pordenone e dall'azienda sanitaria, e dopo un restyling e con l'aggiunta di alcuni dettagli artistici la cancellata si è trasformata in un monumento alla memoria che vuole celebrare sia l'ex caserma sia i bersaglieri che l'hanno abitata. Il programma della mattinata: ritrovo, partenza dalla stazione ferroviaria, trasferimento a piedi su via Mazzini verso piazzale Ellero dei Mille al suono della fanfara, dove è stato reso onore ai caduti di fronte al monumento in piazzale appunto Ellero dei Mille. Trasferimento quindi lungo via Montereale per la cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro per la cancellata del complesso monumentale alla presenza delle autorità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:20, siamo al tempo, cielo da variabile a nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature delle 11, a Trieste e Pordenone 10:05, a Udine e Gorizia 12:05, a Tarvisio 1 grado, a Sappada 3:05, a Tolmezzo 5, a Piancavallo 6:05, a Forni di Sopra 8:05, sul Monte Lussari meno 1 grado, sul Monte Zoncolan 2 gradi, sulla costa a Grado Lignano 10:05. Le previsioni dell'ARPA nelle prossime ore: cielo da variabile a nuvoloso per nubi medio-basse con tempo migliore verso le Alpi Giulie. In serata possibili deboli piogge sulla fascia occidentale con nevicate molto deboli sopra i 1500-1700 metri. Soffierà bora moderata al mattino sul Carso Trieste, zero termico a 2000 metri circa. Lo sport, il basket di Serie A1. A Reggio Emilia la Pallacanestro Trieste alla terza vittoria di fila domina per 96-81. Ci sono giornate dove gira tutto bene. Nella seconda partita consecutiva con la squadra al completo, la Pallacanestro Trieste domina Reggio Emilia fin dalla palla 2 contro una squadra appaiata in classifica ma stanca delle fatiche del play-in in Champions in settimana, e 10-0 in un amen interamente firmato Yutof Robò. L'ala americana segna i suoi primi 4 tiri e nel solo primo quarto, concluso 31-13 per i triestini, e a 18 punti, non tirerà più per il resto dell'incontro. L'emblema della serata jackpot è nel canestro del 15-4 di Ross. La guardia inciampa, non sa cosa fare, scaglia il pallone fuori equilibrio per non perderlo. 3 punti, nonostante probabilità simili al passante che ha vinto 2 milioni a gratta e vinci a San Giacomo. In una giornata dal 50% da 3, la partita è tutta in discesa. Brown è il meccanismo che controlla il pilota automatico per evitare sbandamenti, con lo scarto che rimane sempre in doppia cifra e l'ex NBA e Dream Team Farid, che treccine a parte non si vede in campo, mentre in area biancorossa Johnson, ben imbeccato, ha lo spazio per mettersi in luce. Nel 96-81 finale sono ben 6 i ragazzi di Cristian in doppia cifra, tra cui il solito killer Candussi, un punto al minuto. Trieste ribalta anche la differenza canestri e vola al sesto posto, a meno 4 dalla vetta. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 oggi alle 18 gioca la Paul Wild West Udine sul parquet di Nardò. Intanto ieri sera Gesteco Cividale ha scacciato le ombre del derby perduto superando Libertas Livorno per 88-74. Il derby perso, messo subito alle spalle, Cividale torna a vincere spinta dal suo pubblico contro una Livorno così tenera come il tonno che si taglia con un grissino, che si presenta senza playmaker titolare e con 3 ultra 37enni da 30 e più minuti in campo, tra cui gli ex Trieste Figlioi e Banks. L'avversario ideale per una squadra psicologicamente e fisicamente con la spia della riserva accesa. Il match dura un quarto dove la difesa non cede a nessuna delle due parti e Marangon riesce a ritrovarsi dopo mesi difficili, ben spalleggiato da Lamb. Mentre per la Libertas Banks e il giovane Allinei approfittano della pigrizia dei ducali. Già nel secondo periodo però la squadra di Pilastrini scappa servendo dell'agnello e avendo qualcosa in attacco da un redivo fisicamente giù. 26-12 di parziale, partita ipotecata. Nella ripresa l'ex Udine italiano riporta i suoi a meno 5, ma Lembe e dell'agnello si scambiano nei ruoli di assist e finalizzatore, rimettendo le cose in chiaro. Una tripla con fallo di redivo rende di fatto inutile l'ultimo periodo, con i ducali che possono alzare le mani dal manubrio ben prima del traguardo. 88-74, e quarto posto in classifica consolidato. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora gli spettacoli. Paolo Fresu rilegge Il genio di Miles Davis al Politeama Rossetti di Trieste con replica oggi alle 16, Kind of Miles, opera musicale e teatrale portata sul palco da un manipolo di musicisti fuori classe. Paolo Fresu racconta il mito di Miles Davis, lo racconta con le parole ma soprattutto suonando le musiche che hanno costruito quel mito, e per farlo ha bisogno di due gruppi sullo stesso palco, uno con impostazione acustica, pianoforte, batteria, contrabbasso, l'altro aperto alle sonorità elettriche con chitarra, basso e un altro set di batteria, perché l'universo sonoro di Miles Davis comprende tutto ciò che si chiama jazz, dal blues all'avanguardia. Il raggio di energia che attraversa questo universo è un suono di tromba che sa essere una rasoiata e diventare una carezza, rimanendo sempre inconfondibile fin dalla prima vibrazione. Preso dal palco, racconta di essere diventato musicista jazz, cercando religiosamente di ricreare quel suono e quell'energia, ma dal palco poi arriva la sonorità di Paolo Fresu, che però non esisterebbe se non fosse esistito Miles Davis, artista e uomo, con i suoi eccessi, il suo carattere spigoloso, la sua identità afroamericana rivendicata e problematica, che finiscono nella musica non meno che nel racconto fatto di parole. Un fiume di suoni che lascia senza fiato anche per la qualità dei musicisti del doppio gruppo, che è davvero fuori dal comune. Trieste, Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere ancora un appuntamento all'Auditorium di Prato Carnico alle 18, Rocco Burtone in Canzone del Disordine, concerto spettacolo tratto dall'omonimo libro. Ed è tutto per questa edizione domenicale del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Daniele Lettic e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona continuazione di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.